Beh, cuocomane, dimmi se la modulazione è limpida, è recoaro oppure c'ha qualche problema. No, c'è limpida, Puglia, non c'è problema. Facciamo la partita a due nel coso. Stai cominciando a scendere su questo cazzo di batteria di quello grosso. Dopo la ricarico. Ormai c'è ancora uno, due, il terzo, uno, due, uno ce l'ho io, l'altro lì, un due, il terzo c'era Daniele e il quarto c'era Luca Cavallaria, c'è ancora 488 ciò. Eia, ecco qua. Questo è il presidente McKinley, era fermo da un po' di tempo e l'ho attaccato per prova, da. Magari c'è qualcosina dietro, poi. Sì, mi pare di sì. Va bene, prova fatta. No, già sei stato bene, ci mancherebbe. Sì, perfetto, che radio il segnale. Sì, va bene, allora io come ho detto là stacco e mi ascolto un po' di musica. Se posso rientro più tardi, da. Ciao Antonè. E io va bene, ci stiamo più tardi allora. A dopo, stammi bene.